Mosello, praticamente smantellare la stazione pompaggio lì che c'è sotto il ponte, che manda l'acqua da Monte Losello Basso e fa la nuova, il resto sono tutte nuove, credo sì, però lì a Cagliari non lo so, Cagliari è un po' un disastro, è un casino, non so perché sono così. Marrubio sì. Ciao, come volevo entrare? Buonasera a tutti. Ogni tanto lo faccio per animare la serata. Buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Franco. No, per animare la serata, ho capito. Vabbè, già non sono in cuffia, quindi già non ho problemi, già va bene. Ciao Marco, buonasera, ben sentito. Eia. Ciao a tutti, dai, sto arrivando, cioè mi ho acceso da 5 minuti, stavo ascoltando. Adesso sono entrato, dai, non ho fatto tutto, era tanto per breccare. L'acqua di rete state dicendo, e purtroppo ne divenne una, oggi è potabile, oggi no, oggi è potabile, oggi no. Io so che esistono delle pastiglie potabilizzanti, almeno per la parte microbica. Poi ho visto su questi negozietti di militaria, ci sono vari filtri per filtrare anche le sostanze chimiche dell'acqua, ma visto che si trova in bottiglia, quelle sono cose per le emergenze, ma visto che si trova in bottiglia, ci beviamo quella di bottiglia, si presume sia più sana. Scusi, Marco, delle pastiglie, cosa serve? Cosa servono quelle? Con l'impianto di biossido che abbiamo? Cosa dobbiamo mettere le pastiglie? Già avremo le piscine. Ma stai scherzando? Sono nei potabilizzatori, c'è l'impianto di biossido di cloro che fa il suo lavoro. No, non è così, però, perché io sento troppe stronzate nell'aria, cioè dovete capire che settimanalmente tutti gli impianti di potabilizzazione, qualsiasi impianto di potabilizzazione, citiamo Trunco Reale, citiamo per Sassari, citiamo Montagnese per Alghero, citiamo per la Gallura Pedra Maiore, che è uno degli impianti più grandi che abbiamo in Sardegna, settimanalmente, a parte giornalmente, da parte, perché in ogni impianto c'è un perito chimico e un biologo, in tutti gli impianti di potabilizzazione. L'acqua va controllata in praticamente tre turni, che praticamente sono 6-2, 2-10, 10-6, va controllata ogni 2 ore, ok? Ogni 2 ore. Dai chiarificatori in uscita, quindi a parte i conduttori che fanno questo lavoro, i laboratori che sono all'interno degli impianti di potabilizzazione vengono seguiti sia dal perito chimico che dal biologo, uno, ma settimanalmente l'acqua va analizzata in ogni impianto della Sardegna, ma non solo della Sardegna, in qualsiasi potabilizzatore d'Italia, va controllata settimanalmente dall'ATL, così chiamata APAS, ok? E qualsiasi parametro va segnalato immediatamente. Quindi se può capitare che durante la conduzione delle 12 ore c'è un fuori norma, immediatamente va messo in sicurezza, quindi non è che si lavora così, si sta a guardare l'acqua che scende da chiarificatori in uscita per le stazioni di pompaggio così, non è assolutamente vero. L'acqua è controllata settimanalmente dall'APAS e giornalmente ogni impianto di potabilizzazione c'ha sia il biologo che il perito chimico che analizzano l'acqua ogni due ore. Eia. No, ogni tanto sentivo la notizia sulla nuova di non bere l'acqua perché c'erano nitriti o roba del genere. Vabbè, io in passato la bevevo, cioè quando avevamo l'acqua in bottiglia bevo quella da bottiglia, quando non c'era quella in bottiglia bevo anche l'acqua in rubinetto, sempre che non avesse un sapore di cloro troppo forte. Va bene, i nitriti, boh, non so nemmeno da cosa dipendano, lo saprei più tu che io sicuramente. Marco, i nitriti e i nitrati si trovano negli impianti di depurazione, nelle uscite delle acque depurate, ok, che vanno in agricoltura. Lì puoi trovare nitriti nessuno, però per legge va segnalato e quindi il sindaco, che è la carica più alta della città, dà l'ordinanza che l'acqua non è potabile. Ma stiamo parlando di un fuorinorma di ammoniaca, stiamo parlando di un fuorinorma di ferro, stiamo parlando di un fuorinorma di cosa ti posso dire, di cose che non danneggiano, non si muore per quelle cose, però per legge l'acqua deve avere tutti i parametri a norma. Ok, stiamo parlando del potabile, quella che noi abbiamo nelle case. Va bene. Per quanto riguarda gli impianti di depurazione, il controllo e la gestione è diversa, perché in un impianto di depurazione, in una vasca di equalizzazione, entrano le acque reflue. Può succedere che durante il processo dell'impianto, quindi del trattamento delle acque reflue, in uscita, che anche lì, attenzione, anche sull'impianto di depurazione, non settimanalmente ma mensilmente l'ALPAS fa i controlli per vedere se l'acqua che è stata depurata per andare in agricoltura ha i parametri giusti per poter essere trattata. Può capitare però che vai fuori di ammoniaca. Perché vai fuori di ammoniaca? Perché magari hai poco ossigeno nella vasca di ossidazione durante il trattamento del processo. Quindi lì vai fuori ammoniaca se sei basso di ossigeno. Okay? Può capitare che durante il processo ci possano essere dei batteri un po' troppo alti che purtroppo non si riesce ad abbattere perché il reflo è troppo pesante, quindi il COD è troppo alto e automaticamente capita che ci sia un fuorinorma di nitrati e nitriti solo esclusivamente negli impianti di depurazione. La potabilizzazione non può mai avere nitrati e nitriti perché altrimenti stanno trattando acque reflue, stanno trattando merda, ci siamo. Sì, dai, fai, non fare passaggi falconiani, dai, già ho capito, vai Gianfra. Questo per chi sta ascoltando, così si fa un'idea, Marco, non passaggi falconiani, questo è il significato di quello che io lavoro, di quello che è il mio lavoro, quindi è giusto dare anche una spiegazione, perché molte volte sento un sacco di stronzate, vai Gianfra. Comunque, a proposito, Marco, sei andato a trovare la tua ragazza? No, non sto più andando perché c'è vento, mezzo nuvoloso, mezzo no. Ormai toglierò, come vedi settembre non è da mare da noi, in Sicilia sì. Cioè, hanno fatto vedere estate, proprio estate. Non sto più andando, dicevo, toglierò tutta la roba del mare ormai dal cofano, spiaggine, ombrellone, levo tutto, capito? Ormai la stagione è andata. Peccato perché quest'anno ne ho fatto metà di estate e l'altra metà, pazienza. Io mi prefiggevo, così si dice, di andare quasi ogni giorno, tranne un giorno di riposo ogni tre, invece praticamente non mi sono nemmeno abbronzato. Non che mi interessi, perché proprio l'abbronzatura mi interessa stare in acqua, divertirmi, dai. Via. No, Claudio, sai perché te l'ho detto con i nitriti? Perché la Nuova Sardegna ogni tanto se ne esce con frasi, ci raccomanda di non bere l'acqua del rubinetto, capito? Ma i giornalisti della Sardegna per me sono acini, potrebbero solo scrivere fumetti come stavamo parlando l'altro giorno, capito, di Lando, di cosa, quei fumetti che stavamo parlando. Nessuno non ha una preparazione tecnica, una preparazione adeguata, non può andare a scrivere che l'acqua non è potabile perché sono stati trovati nitrati e nitriti. Sono da arrestare, capite? Cosa stiamo trattando? Cioè un potabilizzatore va a trattare l'acqua reflua. Di cosa stiamo parlando? Un potabilizzatore va a trattare l'acqua urbana, quindi l'acqua, le acque bianche, l'acqua che vanno messe in rete. La depurazione è un'altra cosa, la depurazione va a trattare il reflo, ok? Quindi può esserci anche dei nitrati e nitriti o altri batteri come tanti altri. Ok, per non stare a spiegartelo, perché sennò sarebbe troppo lungo. non sanno cosa scrivere, Marco, non sanno assolutamente cosa scrivere, capito? Devono vergognarsi solo di scrivere stronzate. E poi la gente ci crede, perché chiaramente un vecchietto che non è preparato, una persona che non sa che cosa sta solo leggendo e non sa però che cosa vuol dire nitrati e nitriti e dove si trovano, perché è chiaro, dice, allora tu non bevete l'acqua che, capito, puoi prendere la salmonellosi, ma da cosa? Dalle acque bianche? Ma no, per favore. Leia, no, magari non a quei livelli, ma è bella nuova, ha una brutta fama di ingrandire le cose 10 volte tanto. Sai come fanno, no, da noi? Anche quando c'è un indagato per qualcosa, arrestato tale e tali, invece magari sono solo indagati, ne sparano grosse, dai, in breve. E per la mia ragazza, guarda, ho freddo io qua in camera, ho la felpa, le calze, sono vestito proprio a pantaloni lunghi oggi. Ho freddo io qua dentro casa, e non come faccia a stare lì. E spero per lei che si arrenda e che vada in qualche ritrovo, rifugio. Quelle cose che danno per la Caritas, no? Dove ti danno da dormire e da mangiare. Poi sei libero di uscirtene quanto vuoi. Che o ci muore, oppure ritratta, capito? Vediamo se riuscirà a affrontare questo inverno. Io sono del parere, te l'ho già spiegato, che da lì sarebbe andata via se avessi comandato io. Alla grande, con la forza sarebbe andata via. Non ci avrebbe più messo piede lì, capito? Perché solo avrebbe messo le manette. Perché lì non si può stare. Quello è un posto pubblico, ok? Le pensioni sono state fatte per le persone, non per accogliere questi deficienti, perché quello è una deficiente per conto mio. Altro nome. Vai, Gianfra. Fascista. Qui non si può dire quella parola, però a te se ne diranno 10 anni. Semplicemente ci finisce tu secondo il campo di qualcuno. Beh, Claudio, proprio perché è solo pubblico, da lì non la puoi mandare via. Se no l'avrebbero mandata... Anzi, guarda, se il tram fosse passato lì, nella rotonda, come era prima, allora sì, l'avrebbero mandata via, perché giustamente chi piglia il tram deve usufruire delle pensiline. E un macello, o le fanno un TSO con qualche scusa, per esempio se diventa matto o si ammala, glielo fanno, e come il TSO? A Malagana la caricano a forza, sulla barella ce la portano via. Se no quella si ammala davvero e muore, mi poi magari trovano un colpevole, vanno a dire che il comune l'ha fatta morire di fame e di freddo. Capito? Dove, chi è che gliela regala una casa? Le vuole la casa e proprio con la firma che la casa è sua. Chi è che gliela regala? A meno che non sia un ricco, un benefattore, non lo so. Gianfra, com'è questa radio? Un tuo parere? È apprezzabile, bilanciata, è troppo larga, perché potrei anche abbassare se necessario. No, lasciala così, per me va bene. Non toccare. No, riguardo la cosa sbagliando, perché siccome è una pubblica, questa qua si è stanziata lì, quella è occupazione di quello pubblico, in base a ciò si può anche prendere provvedimenti, probabilmente non li prendono perché a tutt'oggi non sanno di chi è questa rotonda, se di Zaffari, se di Sorso, se di chissà chi, se non riesce a niente a nessuno, se aspettano che stia morendo, vecchio. Queste cose italiane. Non sanno di chi è. Lo sanno bene chi sono le competenze, ma nessuno si vuole prendere la patata bollente di mandarla via a forza, proprio portata via dalla polizia, dai. È molto determinata, come per la sua età. Ho visto anche una foto di quando era giovane, che era dimagrita perché faceva scioperi della fame. Perché lì, per la storia dell'anonima sequestri, nota bene, ha sempre dichiarato di essere innocente, faceva bombe di scioperi della fame in carcere, infatti era diventata un fuscello. Poi, boh, non si sa, secondo me c'entrava, era fidanzata con uno di quelli dell'anonima sequestri. Vuoi che non ci abbia partecipato a quella storia lì? Come si chiamava quello là? Pupo Troppa, Troppa, così è. Ma chi? Il sequestrato. Beh, ai tempi che furono, sì, Pupo Troppa. Sì, era anche morto, da tanto anche, che era anziano. Anziano? Beh sì, Pupo Troppa c'era abbastanza grande. E io, Fabi Date, Natalino ci sei? Natalino, non sarei andato a pescare con questo vento, no? Di più si pesca con questo vento. La mia invece è la motivazione, come già fa, va bene? Sì, va bene. Anche se vedo me che finta la rifiutato anche quando era a Gorizia o dov'era, perché lei era stata anche in quella zona lì. Ehi, adesso mi condannano perché non le ho passato gli alimenti, capito? No, ma non è quello il problema, non, assolutamente, io ti ripeto, sei una persona anche umile, perché sei lì, ti trovi di passaggio, me lo dai un euro per gliel'avrei data anch'io, non è quello il problema. problema è che la soluzione si potrebbe risolvere e lei non vuole risolverla, ecco. Quindi a quel punto non so cosa dire, perché ci potrebbero essere tante soluzioni. Non mandare ad una casa a riposo, va bene, per mille motivi tuoi personali, però se fossero intervenuti come devono intervenire, ci sono tante soluzioni per poterla sistemare. Ok, però lei continua a non accettare nessuna sistemazione, rimanere lì è chiaro che comunque dice, ma cosa me ne affutti, ma rimane lì in Chivi e ho meno problemi per l'amministrazione comunale, ma cosa me ne frega? Vai Gianfranco. Sì. Sai dove gli hanno offerto? Non la casa di riposo, proprio ospizio. Quei posti che ospitano i senza tetto, tutta roba di volontariato, forse gestita anche dalle suore, assieme alla messa, capito? Esco, sai come si dice? Buon viaggio. Se la vuol capire bene, se no, spero solo di non trovarla la prossima estate ancora lì. Vabbè, lasci pure che non la trovi lì. Dammi 2 secondi che devo mangiare il cane, va. La trovi ancora lì, con qualcosa in più di quello che poteva avere, poteva fare l'anno precedente. Riprendi Gianfra, un secondo, arrivo subito, anche sulle 6:30 vorrei mangiare il cane. Senti, tutto per lui, ma d'altronde non è... non puoi cercare un caso volante. Tutti vogliono la casa, però poi alla fine fino a lì siamo arrivati, davanti con un amico e tutte le cose. Purtroppo non siamo un paese certo che brilla, siamo un peccato giusto e tante vogliamo più solidale, ma quelle che lavorano, quelle che magari sono anni che hanno occupato la casa, se ne sono appropriati indirettamente. Siccome c'erano, hanno fatto il fuoco di guardare le prime, siamo veramente assurdi. Quindi, boh, credo di... Comunque, qualche cosa succede, Aspetta, come Gianfranco, non l'ho sentito. E qualunque cosa succede, è cosa tua, perché così un capo espiatorio bisogna sempre trovarlo, soprattutto in politica. Oi. A me aveva dato fastidio una volta che, vabbè, finché mi chiedi 1 euro per il caffè, pigliati il caffè che poi lo userà per mangiare, non per il caffè. A parte che fuma, si compra le sigarette, quindi se le spenda per mangiare anziché per fumare. Una volta si è allargata, ha chiesto se le potevamo portare un certo tipo di pane, solo quel tipo di pane, e poi voleva dell'affettato e mi ha detto quell'affettato, dice non salame, assolutamente, deve essere, non so cosa mi aveva detto. E lì mi ero buriato, ho detto, chi è questa che si permette di... vuole solo un certo tipo di pane, un certo tipo di... aspetta, le faccio la spesa pure. Da allora abbiamo dato più un citto. Poi solo l'altra volta siamo usciti con mamma le ha dato 1 euro per quello che deve prendere, magari il caffè, certo no, e nemmeno il fumare dovrebbe, che i soldi vanno mangiati, non mandati in fumo. Poi tutto, sai cos'è, lascia in quelle aiuole, quelle piante che ci sono, tutto pieno di, butta tutte queste scatole di cimental, di tonno, è uno schifo un po', com'è. E comunque quando aveva la copertura, quella copertura intorno alla pensilina fatta di in questi aloni verdi, no? Dice che quando l'ha smantellato c'erano anche topi dentro, cioè ci dormiva lei e la sua roba, i topi, forse un cane, uno o due cani, quelli sui i cani che randaggi che ci sono lì. Quindi o si piglia qualche cosa brutta, leptospirosi o qualche accidente. Vabbè, comunque se la cerca lei, ascolta, la mano gli hanno tesa, non vuole andare, arrangiati. Discutiamo anche troppo, mi di questa donna. Chi è? Chi non è? È una perfetta sconosciuta. E basta, ma... vabbè, le molto relativo qua in Italia, mamma mia. Poi ricordati, come dico sempre io, Gianfranco, le leggi sono fatte per essere infrante. A me invece sta impressionando questo fenomeno di ammazzare donne. Ogni due giorni c'è una donna ammazzata e la trovano morta o accoltellata o con la testa tagliata, come quella ragazza di vari giorni fa che era sparita, e quel piccino che ammazza la ragazza. Ma è un continuo, e sono sempre gli uomini che ammazzano le donne, mai donne che ammazzano, raramente donne che ammazzano uomini. Dovrebbero reintrodurre la pena di morte per certi reati, per l'omicidio volontario, ma non credo che comunque sarebbe un deterrente, perché in America, negli stati dove c'è la pena di morte, ammazzano lo stesso. Ma chi lo sa, se magari in Italia un po' funziona, che non si può, dai. Non si può, perché poi ci sono troppi per i diritti dell'uomo contro la pena di morte. Adesso hanno fatto anche il partito animalista, con quella con i capelli rossi sempre in mezzo. Dopo hanno più diritti le bestie che gli uomini. Non so se l'hai visto, come si chiama quella con i capelli rossi? Animalista sfegatata, te lo ricordi? Non mi viene il nome. No, un altro nome. Allora, non è la Santanché. Mannaggia, vabbè. Partito animalista hanno fatto, adesso hanno rotto però, e anche il sindaco, di non sparare Capodanno perché gli animali si spaventano. Ah, perché gli uomini non si spaventano, no. Soprattutto gli anziani. Ce l'hanno contro la caccia, vabbè, anch'io non caccio, non mi piace ammazzare gli animali, Però è giusto che i cacciatori esercitino il loro diritto. Insomma, questi animalisti un po', poi sono fissati, sono un po' troppo pressanti, certe volte rompono parecchio. Anch'io dico di non far soffrire cani, gatti, animali, ma a quei livelli si stanno allargando un po' troppo. Poi adesso che c'è il partito animalista non ne parliamo. Credo che devono imporre la loro, diciamo, il loro credo agli altri. Quindi se tu non sei animalista ti additano, capito? Ti dicono che allora se non sei animalista ti piace vedere soffrire gli animali. No, mai detto, mai detto. Claudio, sei entrato dalla mangiata del cane? Sì, sì, sono qua. No, no, no, no. Cosa? Non era Giorgio Meloni degli animali? No, è la cosa, come si chiama? Brambilla, come si chiama? Brambilla. Esatto. Ecco, guarda, c'era un nome, mi ricordavo Barilla, una cosa del genere, ma non mi veniva, Brambilla, quella lì, quella ce li ha rotti, ha fatto anche il partito adesso. Il partito di che cosa? Dei canini? Partito animalista, quindi ci faranno due palle così. No, io sono d'accordo, non passo però che quando andiamo a votare possiamo votare gli altri, che almeno sono più intelligenti di quelli che ci sono adesso. Quindi candidano gli altri e noi vediamo il voto come chiesto. Perché? Registrato il break di Giulio. Vabbè, voteremo gli asini allora, e qui siamo a posto. Avanti Giulio. Ok, ciao, ciao qua. Allora, vediamo. Come tanto la radio sembra a posto, possiamo passare? No, no, va bene, va bene. Sono io, Gianfranco e Marco, già va bene. Sì, sto ascoltando gli ultimi, il tempo di andare un pochino sulla radio. Ciao Marco, ciao Gianfranco. Forse c'è stato anche un altro break, poc'anzi, che quando stavo parlando della Brambilla ho sentito un'altra persona. Vediamo se c'è. Avanti, ma chi era l'amico che si è introdotto quando stavamo parlando della Brambilla? Niente, volevo dare il suggerimento e basta, vabbè. Tornando al discorso, Marco, della donna che c'è lì, io ho fatto un altro pensiero, sarà forse un pensiero bizzarro. Quella donna dice che vuole la casa, no? Allora a questo punto dobbiamo considerare questa situazione. Per me io la sto considerando, probabilmente sto sbagliando, non lo so, però è un pensiero lecito da fare. Quella donna ha fatto 20 anni di carcere e dunque è abituata a fare, non è che adesso che ha finito la pena l'hanno dovuta per forza di cose togliere al carcere e adesso lei vuole per forza rientrare, siccome è ricca non può fare nessun reato perché non ce la farebbe, e allora in qualche maniera sta cercando di fare queste cose così, creando indecenza soprattutto per la città, o meglio per Platamona, soprattutto a livello turistico eccetera, le persone che vengono da fuori vedono questa indecenza, veramente una vergogna. Scritto così almeno mi mettono nuovo in carcere e dico che ho di nuovo il tetto. O Marco, cosa ne pensi? Quella vuole una casa sua e vuole che si firmi, capito, lo teme fregature, e ha detto che i ricoveri per senza tetto le ricordano il carcere, perché è tutto a orari, a quell'ora ci si sveglia, a quell'ora si mangia, a quell'ora si chiude, a una certa ora devi tornare se non chiudono, le ricorda il carcere, e vorrebbe una casa sua, solo che chi deve fare, cioè danno la casa ai rom certe volte queste cose qua, e è un italiano, tanto mi, lei il debito con la giustizia l'ha pagato, quindi non devono dire nulla su quello che ha fatto prima, si è passata 20 anni in carcere, non lo so, non lo so. L'assistente sociale ha detto che prima devono dare le case ai rom e forse anche ai neri, poi se ce ne resta gliela danno a lei. Ma se ha queste pretese, naturalmente sono pretese un pochino assurde, perché è ovvio, sono tante famiglie con figli e piccoli, anche con bambini piccoli in casa non ne hanno, per cui gente costretta a vivere anche in macchina, cioè sono diversi anche qui a Sassa. Comunque lei ha sbagliato tantissimo quello che ha fatto, non a caso 20 anni se li ha dovute fare, per cui non lo so, sì, so che in quegli anni lì lei in quel periodo che è stata condannata, so, ho sentito dire che era mandata con un vigile urbano, poi se è vero non lo so, comunque sono pare sue. Sento per lei, avanti Gianfranco, una buonasera. Scusate, ma qual è che sono qua? Ma infatti se hai ascoltato, io Giulio ho espresso il mio parere solo per il fatto dell'indecenza di quello che si vede, capito? Assolutamente. Nel fatto appunto per chi vede queste cose, non per altro, tutto qua. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Però io penso che si possa rimediare dandole una possibilità di alloggio da qualche parte, ma il problema, Giulio, è che lei rifiuta l'aiuto anche dell'amministrazione comunale. E quindi, come dice Marco, lei sta lì in attesa che qualcosa succeda, ma cosa deve succedere? Devi andare via da lì, punto e basta, perché quella per me, da cittadino, è occupazione del suolo pubblico, Marco, non ci sono altre alternative. Ma lei sta sulla pensilina, la pensilina è dell'ATP. Cosa vuol dire la pensilina dell'ATP? L'ATP non c'ha niente. L'ATP dà un servizio e le pensiline sono dell'ATP quando se le compra. È l'amministrazione comunale che pensa a sistemare le pensiline, non l'ATP. L'ATP non spende mai un quattrino. L'ATP scrive sopra ATP, ma lo posso garantire che le gare d'appalto per le pensiline sono state fatte anche qua quando io ero consigliere di circoscrizione. Sono state fatte proprio qua perché in via Milano non ce n'è neanche una. L'ATP non ha messo manco un quattrino, capite? Allora assessore alle manutenzioni dei lavori pubblici era Gaetano Pompini ed è stato lui, tramite il presidente della circoscrizione numero 4, a far mettere le pensierine in via La Malfa, via Milano, via Carbonati e così via, perché non ce n'era neanche una. Ah, così è. Quindi l'ATP non è installata l'ATP, che schifo. Eccomi qua, l'ATP installa la pensierina. E perché qua cos'è l'ATP? Cos'è l'ATP? L'ATP è un'azienda. Un'azienda tra l'altro a partecipazione pubblica, perché privata, è a partecipazione pubblica, quindi il comune, la regione che gestisce queste cose. Ma per quanto riguarda i lavori, sono tutti del comune, quindi degli assessorati di competenza. Cosa fa dell'ATP? Sì, anche ti scrivi ATP e dell'ATP. Riprendi Giulio, riprendi. Un attimo, mi assento un istante, riprendi Giulio. Ok. Anche perché dobbiamo considerare che l'azienda tranviaria è stata finanziata dal comune o dalla regione o dalla provincia, da chi che sia. Dunque sono soldi pubblici che mette al servizio dei cittadini. Perché se fosse solo per i biglietti del tram, non credo che poteva andare avanti l'azienda pubblica così, assolutamente no. Per me è finanziata fortemente forse dalla regione, forse dal comune, non lo so, comunque un finanziamento grossissimo lo prende senz'altro. Vediamo se si è liberato dal telefono Gianfranco. Sì, poi tu dici Gianfranco anche. I mezzi sono comprati con i soldi della comunità europea che vanno stanziati man mano che servono ai comuni e alla regione. Questo va l'ATP. Debiti va l'ATP. Capito? Debiti l'ATP. Se un funzionario a casa dell'ATP prende 7.000 euro al mese, capito? Ma lasciamo perdere, va. Non tocchiamo questo tasto. Ovviamente, come tutte le aziende così, preposte dall'ente pubblico, da credo, ovviamente è così, non ci sono dubbi. E vabbè, comunque. Il fatto sta che questa donna così messa così è un vero scandalo. dalla città, però per lui magari c'è sta Isi che non ci serve niente, non ci serve niente perché la conosciamo, sappiamo che è, però quando viene uno da fuori che va bene così, è veramente un'indecenza, ma cosa che pensa? Incazza, secondo me il comune non può pensare a questa donna, invece il comune si è interessato, lei ha rifiutato, ma io le avrei obbligata, sinceramente io l'avrei obbligata, perché se no va bene rinchiusa in qualche casa di riposo proprio, e ti avrei buttato le chiavi in mare o qua. Sì, ma infatti te lo sto dicendo, come ha detto Marco, che già in altre circostanze ne abbiamo parlato, nel contesto nessuno riesce a fare quello che deve essere fatto, assolutamente, assolutamente, perché lasciamo perdere che è in una posizione dove sì, può essere, cosa ti posso dire, trafficata durante il periodo estivo, ma che io debba andare a mangiarmi un gelato anche nel mese di settembre e ottobre a Platamoa per vedere questa sporcizia, perché butta tutto per terra lì davanti a questa pensierina. Giulio, c'è di tutto e di più, scatolette, poi c'ha questi cani randaggi tutti buzzinosi, binghinosi, è una cosa che non va bene, ma non va bene né da vedere neanche dal punto di vista umano, perché è sempre una persona umana che va aiutata e costretta, soprattutto aiutata e costretta ad andare via da lì, la porti via con la forza, ok, la porti via e le dai una sistemazione umana, perché manco i cani stanno lì, ma dove cacchio va questa a sporcare, dove va a lavarsi, dove va a fare i suoi bisogni, dove, nella strada, nella campagna? È una cosa vergognosa da solo da sentire, non neanche da vedere. No, ci sono i bagni portatili, almeno in estate, invece in inverno e gli altri mesi farà all'aperto, e allora sì che è uno schifo. Dove si lava? È una donna, Marco, ti rendi conto? È una donna, dove ti lavi, dove ti pulisci, dove hai il tuo igiene, è una cosa schifosa solo a parlarne. Secondo me lì in mezzo ci trovi la ricotta mustia. Ma per favore, non mi fare neanche pensare a cose inumane, perché queste sono cose inumane che oggi nel 2017 non viene bene neanche raccontarle. Ma stiamo scherzando davvero? Un uomo è uomo e ha altre esigenze, altre... Lasciamo perdere, ok, ma una donna che non si lava fa schifo, vai Giulio. Sì, già lo credo, se ci mancherebbe altro, voi si deve lavare quotidianamente, è bene anche, certo, fare così, e fece così. Poi mi sono fatto di sapere, io Marco, che ogni essere umano ha bisogno di queste necessità fisiche, così, fisiologiche, e dunque lì è costretta a andare dove? Lì in aperta campagna, magari cercando di appartarsi in qualche maniera. E beh, a questo punto sta anche infrangendo la legge, e dunque non va bene, nella maniera più assoluta. Io l'avrei obbligata, e l'avrei presa a cassetta con la luce, che l'avrei portata in qualche casa di riposo e l'avrei chiusa dentro, l'avrei buttato le chiavi in mare, Marco, no? Non è accettabile che una persona, una donna, possa vivere in quello stato. No, sono lì. Poi anche questi barboni che vediamo così buttati per strada, ce n'è uno lì che chiede le luci a Via Lussate, si mette qui dal centro di Via Lussate, salendo, io lo vedo sempre inginocchiato con questo cartello in mano che chiede le luci. Ma dico io, queste persone come fanno a vivere in questo modo? È una cosa assurda, ma è veramente... Io credo che quello lì avrà i calli spessi 5 cm nelle ginocchia, perché sta tutta la mattina inginocchiato lì su quei razzoni di via Lussati, o Marco. Sì, chi è che chiama sotto? Chi è che parla sotto? Parlano sotto, però poi quando le dai il... l'avanti non entrano, vabbè, e magari magari, oh Giulio, quello non è che si prezza, capito, che è abituato a stare in ginocchio e quindi non le fa assolutamente niente. Ma dico io, ma quando vai a quello non le fanno male le ginocchia? A stare tutto, sarà allenato, sarà tutto quello che vuoi, sarà abituato a stare in quella posizione, ma è vergognoso anche vedere quello, che tra l'altro è anche giovane, abbastanza giovane quello, ma dagli un posto da lavorare, per lavorare, capita, ma vengono gli extra comunitari qua e in qualche maniera le facciamo anche lavorare, anche a tirare l'erba, qualcosa del genere, pulire le punete, ma per questa gente ritira la circolazione, che è un'indecenza per la città, per chi guarda, per chi vede, sì, saranno anche poveri quanto vuoi, però è una schifezza veramente, guarda, non è possibile che un essere umano debba vivere una vita così, anche se l'hanno deciso loro, sia ben chiaro, ma io non l'accetterei, perché deve vivere, qualsiasi essere umano deve vivere una vita civile, capita, ma vivono gira i cani, gli animali in una vita civile e le persone devono essere buttate così e lasciate fare tutto quello che vogliono, no, non è possibile assolutamente, riprendi Marco. Vabbè, chi l'ha scelto peggio per lui, ma c'è gente che non l'ha scelto, si trova lo stesso in quelle condizioni, mamma mia, non mi ci fa pensare. Poi ho chiuso tutte le finestre, ma io non ho capito se mi devo ammalare io perché sua maestà vuole tutte le finestre aperte, c'è un vento, una corrente, io vestito mi stavo gelando, penso. I genitori quando invecchiano. Io sei già invecchio anche tu, fregatene. Vediamo un po' se era Valerio quello che parlava sotto, magari che non sentiva Giulio. Valerio, sei tu? Ah, ecco, chiamavi Franco, ho capito Valerio. Me l'ho immaginata, dovrei che Valerio che magari sente basso a Giulio e parla sotto. Ciao Valerio, buonasera, ben ascoltato. Avanti Giulio, lo senti a Valerio, era lui? Sì che lo sento. Ciao Valerio. Aspetta. Vabbè, dai, a questo livello già va bene. No? L'antenna è Valerio, è inutile, l'antenna è messa, cioè il dipolo è messo in basso, per cui non posso arrivare in maniera decentissima. Interessante, solleva il volume, cosa vuoi che dica? Fammi questa cortesia, sollevi il volume e quando poi parla Claudio magari se lo riammazzi. Se no ti metti il volume automatico, a seconda delle modulazioni, sale o scende la radio. Ui. Vabbè dai, ti rilancio per quello, vai. Cappa, a sinistra, proprio nel cerchio, la rotonda a sinistra. Caspita, ho i piedi freddi, ho le calze, te le immagini? Tutto aperto, qua una corrente, un freddo, uno si deve ammalare. Va bene, e già diventerò più vecchio anch'io, Claudio, ma fino a quel momento non mi voglio pigliare malanni, no? Ciao Valerio, ben sentito, dai. Ho levato lo squelce perché nonostante sia al minimo, ti chiudeva, lì non t'avevo sentito. Sentivo qualcosa sotto di Giulio e credo fosse anche, che ne so, Gianni in baramobile, qualcuno in baramobile, magari Eugenio, invece no, eri tu, dai. Eia, ma tu dicevi Franco chi? Stavi chiamando Franco, Franco chi? Eia, ascolta, ma Giuseppe non sta più entrando? Caspita, Santiago 5, a te, altro che centrale, sta uscendo con la calza e boh, mi sa. Vabbè, il problema è che lì, per fare quel lavoro noi eravamo pronti, però lui lo vuole fatto in una diversa maniera, e qui e là, insomma. Poi penso che ci sia un contratto anche con la nipote che abita lì, non so, ma neanche io l'ho più sentito, però dovevo telefonare almeno, dovevo telefonare per sapere come sta, mi dimentico sempre, ci picchi, va bene. E vale, sto andando con la radio piccola e l'MP più 5, no? È che sto andando con neanche 10 watt, no? qualcosa del genere. Va bene, riprendi Giulio. Ok. Vabbè, dai. Mi avvicino un po' al microfono, magari da voi storce un pochino, per farmi sentire meglio da Valerio. Voi già mi seguite lo stesso, dai. E cosa ci vuoi fare? D'altronde è così. Ma può darsi anche, sai, l'uomo a una certa età, può darsi che non ne abbia voglia, o perlomeno può darsi che stia invece ascoltando anche, non lo so, non è tutto è possibile, ma se ha l'antenna messa male, diciamo che esce peggio di me, dai. Anche se devo dire con sincerità che a me mi sentite bene, mi hanno sentito anche fuori intendo anche fuori dall'Italia, per cui anche se il dipolo è basso va bene così e non c'è motivo di tirarla su, intanto per le persone che siamo rimaste in frequenza va bene così, riesco a farmi sentire ugualmente. Mi devi sopportare Valeri con un volume basso, per cui quando decido di mettere l'antenna dove era prima mi sentirai meglio. Tu mi arrivi Santiago 5, modulati 6, avanti Valeri. Impressionante. E Giulio sta arrivando. C'è trovate però, quando stacca arriva 2 qua. È un bel forte arrivo. Attimino che non suonato, arrivo subito. Eccomi. Sì, stavo notando. A parte io segnale qua non ne vedo perché sto usando un baracchinetto senza smitter, no? La tua modulazione rispetto a quella di Claudio è impressionante, è fortissima. Allora Claudio, così, Giulio buona, ottima la modulazione, ma Valerio ha una modulazione impressionante, è fortissima, io devo abbassare il volume con Valerio, alzarlo per Claudio. Giulio, vero? Sì, confermo, infatti io lo sento bene, soprattutto per la radio che ha Valerio, per cui mi sta bene così, insomma non faccio nessunissima fatica nell'ascoltarlo, va benissimo. Ripeto, io ho potuto constatare che quando magari stacca qualcosa arriva 1,5-2, oggi mi sta arrivando 5 e 6 modulati, ma con una radio che ha un'oscillazione fenomenale, supera anche alle volte 6 e si avvicina a 7, per cui da 5 a 7 beh, in certi passaggi, con certe notte, diciamo. No, va bene, una bella radio forte. Vai, Valerio. Sì, c'è un abisso. Non credo che sia una saturazione locale, perché guarda, in 3 che 7 Claudio è più basso di radio, regolando il volume su Claudio è Giulio, ottima, bella, piena, ma la tua è impressionante, è proprio tipica di un 48 Colt o quello che è fortissima, fortissima, pensa che devo abbassare il volume perché qua fa una bolottu. Guardate, se potessi registrarvi le vostre tre radio, fare un video e mandarvelo tramite WhatsApp, vi rendereste conto. E aspettiamo che torni Claudio al limite. Prendo la macchinetta lì. Prova a fare il cameraman audio, Marco, dai. E adesso siamo curiosi di sentire la nostra voce attraverso l'etere. Va bene, io il microfono ce l'ho all'interno del mobile, magari rimbomba un pochino lì, e poi è coperto anche dalla bustina, una bustina ci metto sul microfono, Marco, per la polvere, capito? Ci metto una bustina, per cui così viene riservato in tutto e per tutto il microfono, bisogna trattarlo bene, perché costa un sacco di soldi. Va bene, dai. Prepara intanto tutto il macchinario per poter fare la registrazione. Avanti, va lì. Yeah, vediamo se Claudio è rientrato. No, allora facciamo così, facciamo la prova. Cioè, vi faccio sentire, prima riprende Giulio. Giulio, fai un passaggio di 10 secondi. Dopodiché Valerio fai un passaggio di 10 secondi, però aspettate fino a 10 prima di parlare. Giulio, conta fino a 10 secondi e poi inizia a parlare, ok? Giulio, il primo. Ok Marco, d'accordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, vai. No, aspetta Giulio, aspetta 10 secondi prima di parlare e dopo fai un passaggio, ok? Ah, ok, non ti avevo capito, eh? Aspettiamo, allora... Ecco qua, Marco, penso che tu abbia preparato tutta l'apparecchiatura, prendiamo un po', se mi senti, non so se sono troppo vicino al microfono, in modo che mi senta meglio anche Valerio, in quel caso lì potrei anche saturare leggermente. Comunque, faccio due passaggi, uno è a questa distanza, e l'altro è alla distanza solita che dovrei modulare per non saturare. Ok, avanti Marco, vediamo un po' se questa modulazione mi piace, o se devo cambiare voce. Vai Valerio. Sono entrato. Claudio, aspetta, fai un passaggio di 10 secondi, vai. Non capisco perché, cosa sta succedendo, cioè state facendo prove tecniche di trasmissione. Io vorrei, sto andando con quella piccolina, ti ho detto, è l'MB più 5 che è a 4, 5, meno della metà, capito? Sto facendo andare un po' i baracchini questi giorni, poi magari domani o dopodomani riattacco quello grande. Vai Marco. Fatto, adesso comincio a mandare Giulio, Valerio e Claudio. No, stavo facendo una comparazione, ho detto che Valerio ha una radio impressionante rispetto al volume di Claudio e anche rispetto al volume di Giulio, che anche è buono. Valerio pompa, non so quanto stia andando, ma qua è 9.15 abbondante P&P, Giulio è leggermente più alto, quasi 20, però è impressionante il segnale che ha, quindi chiaramente anche la spinta della radio, tutto qua. Vai Giulio. Ok qua, sì, io sto usando, vediamo, 10 whisky qua. Vabbè, ma lui è a 35 km da dove sono io, è chiaro. Però, ripeto, anch'io lo sento con una modulazione strepitosa, è fortissimo veramente. È dal senso della profondità, cioè si sente il senso della profondità, che in quella portante la radio è penetrante e dunque è robusta, ecco, robusta veramente. Vai Valerio. Marco sta preparando la registrazione. Anche quello vale, anche quello. Ascolta, ma poi quell'altoparlante l'hai piazzato in macchina? Va bene, vale, non c'è problema, posso sapere se l'avevi, appunto, se avevi sistemato quel jack, perché quello è stereo, chiaramente diceva un jack mono. Va bene. Marco? Cosa è successo a Marco? Marco? Niente qua, deve essere che sta preparando la riproduzione della registrazione che ci ha fatto per farcela sentire. Diamogli il tempo. Vediamo se riprende, se non riprende di nuovo fai girare poi tu per Valerio. Marco? Sono sta preparando la magnuzza, che ora sono 7.20. Sono sta preparando a mangiucchiare. Va bene. Sì, vale, ma quella macchina va bene a casa, che a me mi fischiava perché sei troppo vicino, capito, qui e là. La macchina è eccezionale quella, ce l'avevo io, con 48 Colt, ma quello che hai tu. Infatti ti ho detto che ho le cose. Va bene, avanti, riprendi Valerio. Che potenza tiene il 213? Io non ne ho 213, io ho la K1000, la K1000, quello buono. Quanto tiene il 213? O Giulio, tu che sei esperto in cavi? A voglia, oltre 2000 watt, oltre 2000 ne mantiene, tranquillo, non ci sono problemi, no, non dipende dalla sezione del cavo, prova, ci sarà qualche altra cosa. Guarda se il coso centrale del PL tocca o se si muove, se no si gira la ghiera, Valerio. Ma tu lo sai, vabbè, il lineare mio è quasi 2 kW, quello HF. Io lo spazzone che è l'uscita dell'amplificatore, c'ho il PL in vetro. Il vetro ad alta temperatura, perché era lo spazzone del TL922, proprio originale Kenwood, e c'è il piede ad alta temperatura in vetro. Sì. Quando vieni te lo faccio vedere come sono fatti quei piele. Te lo faccio vedere, sono delle piele speciali ad alta temperatura che davano in dotazione con la TL922, che penso diano ancora, vabbè, non è più in vendita, ma io lo comprai nuovo e assieme dentro la scatola c'era lo spezzone con queste due piele in vetro, sono in vetro proprio, ad alta temperatura. Cosa pazzesca, io ce l'ho collegato nell'uscita proprio dell'amplificatore dell'FN2100 della Yaesu, capito? E quello non scalda, eh? 3% che non scaldano quelli. Se lì tu c'hai un piele di quelli imbacchinite da due lì, è chiaro che ti scalda. Lì devi mettere un piele Amphenol di quelli buoni, almeno lì, vale. Perché se no, se metti quei piele del cacchio, è chiaro che ti scalda. O sbaglio, Giulio? Beh, certo, questo è fuori di discussione. Indubbiamente bisogna fare bergogli. Comunque, dovresti attrezzarti con una ventolina di quelli da computer anche. Io l'ho fatto, l'ho attaccata sotto al pannello nel tavolino e dunque indirizzato, quando mi occorre c'è l'interruttore, lo metto in funzione, l'ho alimentato con un alimentatore di carica batteria del telefonino, per cui è efficientissimo, guarda, ti posso garantire che l'eccessivo calore te lo diminuisce tantissimo, veramente, va molto bene così, non ci hai mai pensato? E appunto, però se ne metti un'altra lì, magari indirizzata proprio lì, all'inizio del cavo, dove c'è il PL, e ti va fredda, ti tiene costante con la temperatura mite, e va ancora meglio, no? Per non rischiare niente, tutto lì. Sì, lo so che nel lineare c'è la ventola, certo, ci mancherebbe, un lineare a 300 watt ce l'avrebbe bene, se no guai, se non fosse così. Però così, proprio per evitare che scaldi, così almeno non ti surriscalda questi 10 cm di cavo iniziali, che poi alla lunga, con una certa potenza e con delle trasmissioni lunghe, diciamo, soprattutto con passaggi lunghi, continua a scaldare continuamente, ed ecco che l'isolamento potrebbe subire qualche danno, mentre invece se c'è la ventola non te lo fa mai salire al massimo della temperatura che può ottenere o vale. Sì, funziona a 12 volt, per cui indovina la polarità in quelle ventoline, lo sai che sono polarizzate, per cui devi perché se no non gira, magari tu vai a attaccarle, se sbagli la polarità non gira, e allora inverti il filo e fatta, senz'altro, 12 volt non ci sono problemi. Io ti consiglio di utilizzare un alimentatore, quelli che si usa per caricare il telefonino, di quelli a 12 volt, perché se lo metti direttamente nell'alimentatore quelli da 13,8, insomma 2 volt circa sono diciamo un pochino esagerati per una ventolina del genere. Mi sono tirato, figurati, ci mancherebbe, cazzo, vorrei vedere, è chiaro che certe cose si devono anche dire, no? Quando è necessario. Avanti Claudio, dimmi Claudio, avvicinandomi al microfono così per farmi sentire meglio da Valerio, da te troppo? No, assolutamente no, va benissimo alla grande, come sempre. Modulazione chiarissima, perfetta, senza nessun problema. Sì, però metterci in uscita un PL come Cristiani, non usare quei PL da 2 lire, capito? Ti ripeto, perché quella parte lì scalda. Io ho questo spezzone, quando ci vediamo te lo faccio vedere, è favoloso, eccezionale, da 1,20 m, proprio già tarato per un lavorato, proprio in grigio, un cavo grigio, mi pare che sia un H100, una cosa del genere, ed è proprio lavorato in dotazione col PL922 della Kenwood, cioè PL in vetro, ad alta temperatura, capito? E uso quello lì con l'amplificatore HF della Yaesu, uso quello, lo spezzò. Va bene, dai, io mi preparo, signori, che vado a portare il cagnone, perché l'orario mi sembra che sia molto stretto, siamo alle 7:30, sta già per fare buio qua. prima o poi non vedo dove è. Dove lo lascio lì nel giardinetto, non si vede un accidente. Non lo so, Marco è sparito. Marco, ci sei? È mancata la luce. Sembra strano che sia sparito così. Va bene. Se ci siete a dopo, dai. Continuiamo. Altrimenti ritenetevi salutati se andate via, eh? Ok? E cambio per te, Valerio. Ascolto il passaggio, poi mi allontano e mi preparo per portare il cambio. Vai, Valerio. Fiducio, va, Fusaro. Ok. Intanto nel frattempo, Valerio, sto facendo scrivere il telefono di Marco per capire cosa è successo, se gli è mancata la corrente elettrica, perché è strano. Stiamo preparando il tutto, ci ha incuriosito, ma ci ha anche deluso a questo punto. Ciao, alle prossime, se non ci raggiungiamo dopo, più tardi, eventualmente a domani, dai. Ok, comunque non rispondo al telefono, va lì, e non so cosa sia successo, vabbè, dai, dipende, va lì. Marco, cosa tu sei? Aspetta, scusa un attimo, va lì, ho visto il segnale di Marco, forse gli è successo qualcosa. Marco, ti sto facendo squillare all'infinito il telefono, ma rispondi nemmeno al telefono, babbo. Ma gli ho fatto squillare non il telefonino, gli ho fatto squillare il telefono di casa, quello che ha lo squillo forte, per cui mi avrà sentito, a meno che non è impossibilitato in questo momento per potermi rispondere, e non lo so, ma però nel frattempo ho visto il suo segnale per un istante, ho visto, però non c'era nessuna modulazione, per cui ho pensato che ha qualcosa la radio. Riprendi, va lì. È probabile, magari si trova al buio e non trova il telefono, come glielo faccio squillare per rispondere, se è al buio non trova nemmeno il telefono. Marco, ci sei? No, niente da fare, non riprende, vabbè, ci spiegherà cosa è successo quando riprenderà, o al limite domani quando ci sentiremo di nuovo. Va bene così, dai. Avanti, va lì. Sì, decisamente diminuita, sì, in effetti c'è quel vento gelido che diciamo che stamattina serviva anche un giubbottino, o perlomeno una maglietta un pochino più pesante, anziché la classica maglietta di estate, per cui infatti sarebbe stato meglio usarla, ma diciamo che tanta gente è rimasta fregata, forse pensava di avere un clima un pochino più mite, invece stamattina era necessario coprirsi un tantino. Marco, tu sei? Bello e complice sei tu. Aspetta un attimo. Mi sa che sì, quest'anno mi sa che è un po' anticipato all'inverno. Vediamo un po', che ho visto due volte la portante di Marco, anzi gli ho chiesto anche di dare due colpi, se era lui, e mi ha risposto positivamente. Marco, avanti. Sì. Purtroppo il file è enorme, sono 166 megabyte, non riesce quasi a mandarlo, ci sta tantissimo tempo, abbiamo fatto troppo lungo, perché abbiamo fatto pause, 10 secondi, invece devo dire via e registrare. Purtroppo è troppo lungo, ancora non l'ha mandato neanche a Valerio. Non so se ne varrà la pena, comunque. Adesso nell'altra camera che prende meglio, che qua non prendeva, lo smartphone, e lo sta inviando a Valerio. Sì, comunque vi dico una cosa, che la registrazione non rende giustizia, non è assolutamente paragonabile alla sensibilità dell'orecchio che riesce a percepire le variazioni. E poi il volume è un po' basso, solo Valerio è il più forte. Comunque basta alzare il volume dello smartphone o del computer e ve lo avvicinate un po' all'orecchio, oppure lo mettete per sentire da tutte e due le orecchie, lo mettete all'altezza alla fronte, all'altoparlante, e lo sentite a tutte e due le orecchie. Dai. Adesso vediamo se lo manda, perché non sto usando il wifi, non sto usando il wifi. La mamma riserva il telefono libero, non lo posso mettere, perché per mettere il wifi devo staccare il modem che fa funzionare il telefono di casa, capito? Allora, Marco, avreste fatto prima, guarda, prendere un normalissimo registratore e poi magari venire a piedi sia a casa mia che ad Alghero a piedi, arrivavo prima. spiegami, allora è per quel motivo che non mi rispondevi al telefono di casa, Marco, perché avevi staccato e perché mi squillava a lungo, ha squillato a lungo ma non mi ha risposto. No, allora ti spiego, Giulio. Oggi, per motivi a me sconosciuti, il cordless, no? Che sarebbe il numero che hai tu, è impazzito, andavi a fare le chiamate e appariva la scritta non possibile, non possibile, non riceveva più le chiamate e non le mandavano. E se non che poco fa stava suonando in modo strano, suonava a lungo e non smetteva più, non faceva i normali trilli. Ho detto, ma è impazzito questo telefono. Allora cosa ho fatto? Ho staccato la batteria del cordless, ho aspettato un po' e l'ho riattaccata ed è ritornato normale il telefono. Ho provato a fare una chiamata e funziona, insomma sicuramente, sai, il gatto passando sopra, prendendo tutti i tasti, l'ha incasinato ed era mezzo impazzito, adesso l'ho resettato e funziona, dai, comunque abbiate fede, dai, se non è oggi è domani, già vi arriverà il file. Ok, Marco, non è un problema, no, è figura, che non ti preoccupare, ci mancherebbe. A proposito, Marco, ti volevo informare, anzi, prima faccio fare un altro passaggio a Valerio, poi ti devo informare a riguardo dell'assicurazione che parlavi l'altro giorno. Vai, Valerio. Dimmi pure, Giulio. Allora, alcuni giorni fa tu stavi parlando dell'assicurazione, credo, per il motorino, insomma, per la moto, in poche parole, no? E avevi detto che l'assicurazione che ti avevo consigliato io non accettava il semestre. Sì che lo accetta, io ci sono stato proprio avanti ieri perché ho intenzione di cambiare compagnia e lo farò adesso entro questa settimana, in quanto mi scade il 24 l'assicurazione che la dovrei rinnovare, no? E devo dire che le condizioni che offre questo o questo assicuratore sono ottime secondo me, per cui mi incoraggia a cambiare, tanto più che dove sono andato ho portato anche un amico, pensa, un amico e la figlia anche di un amico, la figlia risparmia rispetto alla compagnia in cui era assicurato sino a stamattina, risparmia 107 euro di risparmio, mentre il padre, cioè questo mio amico, risparmia 100 euro tondi, da 4,20 a 3,20 annue, per cui anche facendo semestrale è la stessa cosa, non cambia niente, o Marco, ti dà una scatoletta da applicare adesivamente sulla batteria, dunque in caso di tamponamento o qualsiasi cosa del genere, subito interviene il caratrizzi, perché quello registra non so dove, alla centrale, eccetera, eccetera. Per cui va bene così. Compreso anche, a me mi ha chiesto 340 annue, mi ha chiesto con questa scatoletta nera, mi offre, oltretutto mi offre un massimale di 6 milioni, mi offre, poi assicurazione furto e incendio, conducente, poi cos'era, un'altra cosa che non, caro attrezzi in caso di avaria, eccetera, eccetera. Per cui io la considero buona come assicurazione, Marco. Eia. No, sai perché ti avevo detto quello? Io ero assicurato alla Cattolica all'inizio con questo scooter 125, no? Però era la Cattolica di via Coppino, però se è Cattolica lì è Cattolica anche dall'altra parte. E avevamo assicurato questo 125 per 3, tipo 3,40 o 3,3, non mi ricordo adesso, giù di lì, dai. Però avevamo scelto di farlo annuo, il primo anno. Quando ho chiesto se potevo dilazionarlo in 6 mesi il pagamento, ha detto no, noi non lo facciamo, per quel tipo di veicolo non lo facciamo, così mi ha detto la signorina. E infatti me l'ero andato ed era andato con la mia, con la che non esiste più adesso, la, non mi ricordo manco il nome, dai, Carige mi pare, Carige Assicurazione, che me lo facevo semestrale, magari pagando leggermente di più, però me lo facevo. Ecco perché ti ho detto quel fatto lì. A me all'epoca la cattolica di via Coppino non me l'aveva fatto semestrale. Dice, per quel tipo di veicolo non lo facciamo. Oh, così mi ha detto. Ho capito Marco, no, questo è quello che c'è lì, all'incrocio di Serra Secca, dove c'è via Coladusa, mi sembra che sia. Dove c'è il semaforo, proprio lì, a 5 metri dal semaforo, per cui all'angolo lì, via Coladusa, di fronte alla CBC praticamente, dai, siamo lì. Prova lì, vedi un po' le condizioni, se ti conviene, vedi un po' tu. Va bene, facciamo girare. Avanti, va lì, scusa il passaggio lungo e il ping pong con Marco. E appunto io stavo dicendo che il cambio assicurazione, perché ad esempio qui in famiglia abbiamo due macchine, no? E c'è da risparmiare abbastanza. In una si risparmia 80 euro, per cui va bene così. E a seguire faccio anche l'altra lì, che lo farò proprio entro questa settimana, perché mi scade domenica, pensa un po', mi scade domenica, per cui lunedì sarei appiedato, se no invece lo faccio questa settimana e cambio compagnia. E devo dire che le condizioni per me sono buone, eh? Ed è lì in via Coladuzza, cioè la GBC, già lo sai, dove sei a Serra Secca, salendo a Serra Secca, no? Sopra all'angolo c'è il semaforo, incrocio c'è il semaforo, proprio lì, all'angolo c'è questa compagnia, la Cattolica, che ha anche altri affiliati, tipo la Unipol, lo sai, eccetera, eccetera, insomma diverse compagnie, ma tutte importanti, anche la SAI è importante, tant'è vero, a me mi ha fatto preventivo, proprio con la Unipol SAI, o Marco. No, rispetto alle altre, guarda, è quella qui a buon prezzo. Io in questo momento ho la Allianz e ti posso assicurare che è più cara, per cui è per quello appunto che cambio. E prova a chiedere un preventivo lì, intanto non è che sei obbligato, vai lì e chiedi il preventivo, te lo fa così subito, te lo fa in 5 minuti, ti fa il preventivo, puoi farlo fare anche telefonicamente, le dai il numero di targa e lui ne rileva tutti i dati ed è in grado di farti il preventivo anche tramite telefono o va lì. Ok, va bene, no, non ci sono problemi. Guarda, se vuoi ti detto il numero di telefono e lì da casa tua stesso gli puoi chiedere un preventivo. Glielo dici il numero di telefono, me l'ha dato Giulio Senta, per cui io problemi di cognome mio non ne ho frequenza, non me ne frega niente. E dunque vorrei che avere un preventivo da lei, tutto lì, capito? Valeva. Ci sono diverse gestioni, ci sono, da un posto all'altro ci può essere differenza, ma quello sembra abbastanza tranquillo, una persona, perlomeno apparentemente è serio, poi sarà il tempo a farmi capire se effettivamente è serio o meno, se no al limite si cambia di nuovo, va lì. Sì, aspetta che lo prendo, perché ce l'ho, ho il bigliettino da visita nel portafoglio, scusa un attimino che lo prendo. Allora Valerio, allora intanto la via è via Coladuzza numero 39, prima di tutto, prenditi la penna, dai, e ti passo il numero del cellulare, ti passo, così lo chiami direttamente, così anche se non si trova in quel momento in ufficio lo rintracci ugualmente, ok? Ti do il numero del cellulare. Sì, si chiama Polo, Giovanni Polo. Il numero è 328 35 90 193. Vediamo se hai copiato, ripetimi il numero. Perfetto, perfetto, il numero è perfetto. Allora, ti ripeto il nome, Giovanni di nome, Polo, come la macchina della Volkswagen, Polo di cognome. Vediamo se mi hai seguito. Ok, tu mi fai una telefonata e così non perdi nemmeno tempo, e lui gli dai gli estremi, la targa, le basta la targa, sapere la targa, e lui riesce dal computer a rilevare tutte le informazioni che necessitano, o al limite ti farà qualche domanda, è ovvio, e poi sarai tu a rispondere, no? A Sassari, allora salendo la GBC lo sai dove è a Sassari, il negozio di elettronica, via Corazzuzza, numero, aspetta che guardo il numero di nuovo, numero è, allora, 39, ripeto, via Corazzuzza, numero 39, Serra Secca, Salendo a Serra Secca, adibi al semaforo, proprio nell'incrocio lì all'angolo c'è questo ufficio qua. Ok, ho detto via Corazzuzza, ripeto, Corazzuzza 39. Angolo via Carlo Felice. Meglio tu Marco, dai. Via Corazzuzza. Angolo Carlo Felice. Il numero civico me lo dici Giulio? Numero 30? 39, quello l'ho copiato. Al semaforo, proprio al semaforo, all'angolo e non può sbagliare. Poi c'è l'insegna grande. Sì. 39 via Corazzuzza numero 39, angolo via Carlo Felice. Eccomi, c'è un freddo fuori raga, dentro casa sta bene sì, ma fuori c'è freddo però. Ma alzali, non so se tu ce l'hai la vettoria assicurazioni a Alghero, io c'ho tutto con la vettoria assicurazioni e mi trovo bene. Me lo dici quando scendi, ti do gli orari. Fare un preventivo, capito? Qual è la cattolica? No, la cattolica già è competitiva, capito, sul mercato. C'è anche la Vittoria, ce ne sono altre, c'è la Liguria anche, non so. Le assicurazioni sono come va il vento, capito? Se non quando le conviene tengono il prezzo buono, poi iniziano a rompere le scatole. Chi c'è rimasto? C'è ancora Giulio, Marco, no? Sì, ci sono io, Marco, cioè Claudio, ci sono io ancora, io vado a cenare. Sì, guarda, oltre alla Cattolica, lui abbraccia anche altre società, a me mi ha fatto il preventivo sulla Unipol Cosai. Dunque anche quella è una grossa società, per cui va bene, sappiamo benissimo, lo sai, a Sassari è sempre stata molto ma molto forte, anche abbastanza di vecchio stampo, diciamo, dai. Per cui lui ha diverse società e ti fai fare quella che a te più conviene. Avanti va lì. Ok, d'accordo. E con quest'ultimo passaggio io vi ringrazio per la chiacchierata e vi saluto, vado a cenare, dai. Sono già le 8, per cui le 8 meno un minuto qui mi segna l'orologio, dunque ci sentiamo domani se eventualmente coincide. Ciao Valerio, grazie per la chiacchierata, a domani eventualmente. Ciao Marco, grazie anche a te per la chiacchierata naturalmente, e non ci pensare per la registrazione, lo faremo in un altro momento. Ciao Claudio, salutoni anche a te e grazie anche a te, per cui ci sentiamo domani. Ok, riprendi pure Marco se ci sei in ascolto, se no riprendi tu o Claudio. Avanti Marco. Certamente, anch'io vi saluto, scappo che sta iniziando il telegiornale, dai, se posso, se riesco a mandartela te la mando, dai, se no rifacciamo tutto, dai, rimanete nelle stesse condizioni e facciamo la prova, ok? Dai, ciao a tutti, ciao, e vai Claudio. Ciao Eugi, tu entri sempre all'ora di zena. Ciao Giù, grazie a te naturalmente, dai, ci sentiamo domani se coincide, ma penso di sì. Io intanto la sera so se per radio, adesso sto rientrando presto al QRL, quindi non c'è problema. Ciao Marco, buona cena, anzi buon pranzo, buon tutto, buona TV, eccetera, eccetera. Ciao Eugenio, buonasera, avanti. E non ti disperare, non ti disperare. Non ti disperare. Il lavoro già è così, dai, non c'è problema. Avanti, vediamo se senti Valerio, ma intanto non lo senti. Valerio? Ah, tu lo senti bene? Ma lui non ti sente, però. Ah, così è. Cosa vuoi ti dire? Non ti accoppia, non ti accoppia. Mi siamo tutta la sera, sono le 8, adesso ora di staccare, andare a cenare, capito mia? Cosa vuoi che ti dica? Sì, anche Marco è andato via. capito mi ha. C'è Valerio però non ti accoppia. No, sei in dubbio, sei lontano, fuori in macchina. Valerio arriva da tutte le parti, guarda, qua è 9 più 20 da casa sua, figura di tu a livello locale, quindi che problema c'è? Il problema è che quando sei in macchina, soprattutto lì al porto, è difficile che lo senti, capito? E vabbè, io ti sento, ma lui non ti sente. Niente, non ascolti per niente, Valerio. Ma lui non vuole capire che in macchina ci vuole l'amplificatore, non lo vuole capire, quindi se non arriva non è colpa mia. In macchina ci vuole l'amplificatore, impianti che fanno fatti in macchina, caro Eugenio, ci vuole l'amplificatore, devi mettere un B150, un 747, devi avere almeno una cinquantina di watt, 50-80 watt, per poter avere grandi soddisfazioni in macchina. Con un 5 watt, un 4 watt, non andi all'Udugu in macchina, capito? Ma come facile con 20 watt, se Santiago Setti, no? Ma lo siete tenendo? Esce con 20 watt, non sono regolabili, esce con 20 watt così quel baracchino. Ho capito, ma sono regolabili o non sono regolabili? Se sono regolabili lo metti a 5 watt e vai a pilotarti un amplificatore che te ne dà 80, perché tu con 20 watt in macchina e non... Mi sembra molto strano, guarda, molto strano. E già si possono regolare là dentro, non ti preoccupare. Si possono regolare là dentro, quindi se li hanno aumentati perché non ce n'è baracchini da 20 watt fissi, non esiste, capito? Poi solo il baracchino che c'hai, quindi il dissipatore che ha è un dissipatore da 8 watt, perciò quello è stato toccato, è stata aumentata la potenza, quindi basta rimetterla come era e vai a pilotare un amplificatore che ti dà 80 watt. Vabbè, si sono aumentati il pompugno, io dico quello che so. Quel baracchino non ha 20 watt dalla calcia, ha 8 watt, quindi sono più che sufficienti per andare a pilotare un amplificatore per la macchina, io ci ho capito. Quindi basta rimetterlo a 8 watt, 5 watt, quando sei nelle vicinanze vanno bene anche i 5 watt, quando sei in lontananza così tu attacchi l'amplificatore e vedi che Valerio ti sente senza problemi. È troppo ingresso, Valerio, ma Eugenio, è troppo ingresso, non va bene con 20 watt. Minimo, da un minimo al massimo ci vogliono da 3 a 5 watt per pilotare un amplificatore per la macchina, capito? Altrimenti va in saturazione. Perciò la signor Pomponio te lo fai riabbassare a 5 watt e vai e ti compri un 747, un B150, un amplificatore che ti dia almeno un centinaio di watt e tu vedrai che anche quando sei al porto Valerio ti ascolta, non ti preoccupare. Ambaragana ti ascolta, ma anche i 20 watt che tu stai usando, che poi non saranno sicuramente 20 PEP, saranno magari 15, non sono sufficienti per arrivare ad Alghero. Però non sono sufficienti perché 20 watt magari così sotto antenna di casa va bene anche, capito? Lui poi c'ha cavo, poco cavo eccetera, ma con l'antenna della macchina vai a disperdere, saranno una quindicina di watt e quindi non sono sufficienti per far sì che dal porto ti senta anche Valerio, tutto qua. Quindi se tu fai come ti dico io, lo fai rimettere come era 5 watt, vai a prenderti un bel lineareto per la macchina, al momento in cui ti serve lo usi, quando non ti serve lasci stare spento, non sei obbligato a tenerlo sempre acceso, capito mi hai? Va bene, va bene, avanti Valerio. Perché lui sicuramente ti sente, vero Eugenio? Lo senti tu a Valerio? Vedi, lui c'ha l'amplificatorino a casa, quando usa il baracchino che lo aiuta, c'ha l'amplificatorino in macchina che lo aiuta tantissimo, e ci vuole. Quando uno c'ha un baracchino che dà 10 watt, 15 watt in macchina, ci vuole per forza lineare Eugenio. Capito, ci vuole. E anche a casa per ogni evenienza, se c'è QRM, se c'è qualcuno che è in lontananza, a prescindere da me, che io sto usando 10 watt adesso, 10 watt, perché sto usando anch'io la radio piccola, con l'MP più 5, 10 10 watt, ma sono in alto e quindi riesco a salvarmi. Ma uno che è in zona bassa, come te lì a Porto Torres, che deve parlare con Alghero, lascia perdere con Sassari, ma con Alghero ha bisogno di dare un po' più di potenza, se no non ci arrivi, perché Alghero per Porto Torres è coperto, capito? Fatti consigliare bene, per casa è meglio sempre, se c'è il alimentatore buono, sempre allo stato solido, quindi a transistor. Oramai le valvole non si usano più, solo le anche nella parte HF sta andando molto lo stato solido, quindi amplificatori a transistor, transistorizzati, ormai le valvole stanno andando in pensione. Quindi vedi un pochino cosa trovi, te lo colleghi a casa, magari ne metti uno, non so, ti posso dire, da 200 watt a casa, e uno da 100 watt e te lo metti in macchina. E te lo prendi tutti e due uguali, uno te lo metti a casa, uno lo metti in macchina. E stai pur certo che il problema l'hai risolto, perché quando tu vai con 80 watt in antenna da casa e con 80 watt in antenna dalla macchina, arrivi in capo al mondo, tranquillo. Sì, c'è quello del 747 della CTE, che vanno molto bene, hanno lo stadio finale a MOSFET, non distorce, va bene, capito? È quello della CTE, mi pare che sia, 747, che sono quelli che vanno di più per la macchina, sono abbastanza consistenti, funzionano bene rispetto a quelli della ZG, capito? Va bene, e tanto Valei, andiamo a mandegare o no? L'hai sentito così, che ha staccato il lineare a Valerio? Ciao, hai visto la differenza? Come senza? No, ti sente basso senza. Io ti sento benissimo, Santiago 9 senza lineare, e con lineare 9 più 15 quasi, quindi per me non ci sono problemi, Valei. Valei, dai, andiamo a pappare. Ok, no, se glielo regali già lo prende, Eugenio. È tantino un po', ma lui non è il problema di soldi, è il problema che magari non c'ha tempo a cercarlo, non sa cosa prendere, capito? Magari dice, toh, tieni i soldi, compramelo tu. E allora va bene. Ma non è uno di quelli che sta lì a cercare e fare, capito? Va bene, dai Valeri, ci sentiamo, là. Grazie per la chiacchiera anche per te, ci ascoltiamo domani, eccetera eccetera. Ciao, c'è Eugenio, sei in ascolto, Marco e chiunque fosse su 10, dai, buona serata a tutti, anch'io mi allontano, sono tutta la sera qua in radio. Ciao Valeri, a domani, KK. Sì, è sceso dalla macchina, dai, che sta lavorando al QTH lavoro. Ciao Valeri, a domani. Ciao, grazie. Notte. Hola, prova radio. Hola.